Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi dobbiamo fermare l'invasione, dobbiamo fermare 500.000 persone, non perché non vogliamo che abbiano la possibilità di chiedere asilo, perché così come avviene l'invasione è ingestibile. E per fermarlo dobbiamo intervenire militarmente. Mi sembra che l'abbia scandito abbastanza chiaramente, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Paolo Romani di Forza Italia. Dice dobbiamo intervenire militarmente. Questa forte dichiarazione si colloca praticamente nella polemica di questi giorni, innescata dalle dichiarazioni del Presidente della Regione Lombardia Maroni. Vi ricordate nel fine settimana appena passato che aveva detto non voglio più nessuno dei migranti in Lombardia, non accoglieremo più nessuno, e anzi ha minacciato di tagliare i fondi ai comuni che invece si dimostreranno solidali. Poi c'è stata la replica di Renzi, poi ieri sera la replica del sottosegretario dell'economia Zanetti. Insomma, ritorneremo senz'altro su questo argomento, perché tantissimo sta facendo discutere, con delle insinuazioni da parte di PD e Movimento 5 Stelle nei confronti di Maroni, che stia alzando tutto questo polverone per un motivo in particolare. Ci occuperemo anche di questo. Ci saranno due ospiti di posizioni politiche opposte su questo tema. E un altro tema importante di oggi è questa decisione del Parlamento europeo di riconoscere le famiglie omosessuali. Tante volte ha sollecitato i paesi europei a riconoscere i diritti gay, ma questa volta sembra, insomma, mai così esplicitamente ha parlato di famiglie omosessuali. Quindi ha votato a maggioranza un documento che le riconosce e che invita anche naturalmente, appunto, i paesi membri ad adeguarsi ai cambiamenti sociali. Cosa ne pensate? Soprattutto, ritenete che riconoscere i diritti alle coppie gay, alle famiglie omosessuali, possa togliere diritti a qualcuno? Pensate che possa essere fondato questo timore? Rispondete con naturalmente sempre due canali vostri per intervenire qui a Effetto Notte, che sono gli sms al 349-238-6666, oppure comodamente anche la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì di giorno e di notte, a qualsiasi ora, lo sapete. Intanto, come sempre, mentre voi riflettete, io vi racconto che giornata è stata. Stati Uniti, per un allarme bomba sgomberata una sala della Casa Bianca, ma era una falsa minaccia. La riforma della scuola, il governo battuto al Senato sul parere di costituzionalità. Diritti gay, il Parlamento europeo riconosce le famiglie omosessuali e raccomanda ai paesi di adeguarsi. Libia, liberato il tecnico siciliano Ignazio Scaravilli, incerti però i tempi per il suo rientro in Italia. Immigrazione, Unione Europea divisa, slitta la ridistribuzione dei migranti. Maroni rilancia, premierò i comuni che rifiutano i clandestini. Mafia capitale, proteste davanti al Campidoglio, mentre l'Assemblea Capitolina sostituiva i quattro consiglieri arrestati. Calcio, si gioca Bologna-Pescara per la conquista della Serie A, il Parma intanto è a un passo dal fallimento. Partiamo quindi dall'allarme negli Stati Uniti, un allarme Marco Valsania, nostro corrispondente sulle 24 ore da New York. Ciao Marco, e dagli Stati Uniti? Ci confermi, ciao, Marco, ciao. Ci confermi che in realtà è rientrato, era stata evacuata una sala dove si teneva una conferenza stampa, no? Lì alla Casa Bianca, però mi pare che succeda un po' spesso ultimamente di questi falsi allarmi. Sì, c'è una strana, una preoccupante forse abitudine a questo punto a questi allarmi. Oggi, proprio in giornata, ce n'era stato un primo questa mattina in due palazzi di uffici vicini al Congresso, due palazzi usati dai senatori per i loro uffici, dove appunto alcuni pacchi non identificati e una telefonata avevano fatto sospettare la possibile presenza di una bomba. Poi anche quell'allarme in realtà è rientrato dopo una rapida perquisizione da parte delle forze dell'ordine. Stessa cosa è accaduta poi alla Casa Bianca, con così l'elemento di un po' di shock e di tensione creato dal fatto che la minaccia è arrivata mentre era in corso la conferenza stampa del portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, e quindi la sala stampa è stata evacuata dai servizi segreti, anche lì Obama, che era comunque alla Casa Bianca, non è stato spostato, nessun'altra ala della Casa Bianca è stata evacuata, segno che comunque si trattava di una misura in primo luogo precauzionale. Poco dopo poi l'allarme, appunto, come dicevi, è rientrato dopo rapidi controlli e la conferenza stampa è potuta proseguire normalmente. Meno male, insomma, tutto è rientrato. Grazie Marco Valsania. e sono raccomandati tutti di non lasciare pacchi in giro, valigie, borse, eccetera. Adesso invece andiamo sulle notizie italiane. Vedo tra l'altro un'agenzia di poco fa, Letta, Enrico Letta, che annuncia lascio il Parlamento, oggi presentate le dimissioni. L'aveva annunciato, vi ricordate, qualche settimana fa, le ha presentate oggi. Siamo alla riforma della scuola. Il governo oggi è stato battuto in Commissione Affari Costituzionali del Senato. È stato decisivo in questo il fuoriuscito Mauro. Un avvertimento forse, sicuramente uno stop. Il governo viene battuto in commissione al Senato sul parere di costituzionalità sulla riforma della scuola. 10 voti contrari e 10 a favore. Non passa per quello determinante di Mario Mauro, senatore di Galla, che nei giorni scorsi aveva annunciato l'uscita dalla maggioranza. Malgrado il presidente della commissione affari costituzionali, Angela Finocchiaro, voti sì, mentre di prassi i presidenti non partecipano allo scrutinio. Pesano anche le assenze dei senatori del nuovo centrodestra. Il capogruppo PD Luigi Zanda è comunque ottimista sull'iter parlamentare della riforma. Beh, un incidente tecnico che non cambia il percorso della riforma della scuola. I senatori del Partito Democratico erano tutti in commissione, un gruppo di maggioranza non ha ricevuto l'avviso ed era assente, una questione puramente tecnica. Ma per Renato Brunetta di Forza Italia lo scivolone è politico. È l'inizio della fine, il governo è andato sotto sulla scuola in commissione, vuol dire che non ha i numeri. Renzi ha ironizzato sul Vietnam, adesso il Vietnam lo sta vivendo. Proprio ieri alla direzione nazionale PD il premier Matteo Renzi aveva aperto a modifiche sul disegno di legge sulla scuola come chiesto dalla minoranza Dem. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E poi dicevo la svolta oggi del Parlamento europeo, una svolta sui diritti gay. Oggi infatti Strasburgo ha votato a larga maggioranza a favore di un documento che riconosce per la prima volta, vi dicevo, in modo esplicito le famiglie gay e chiede ai paesi europei di adeguarsi ai cambiamenti sociali anche in ambiti come il mondo del lavoro. Si parla anche di congedi. Ne parleremo dopo. Voi continuate a fare le vostre riflessioni su questo argomento. Ritenete che riconoscere i diritti gay alle famiglie, alle coppie gay, possa togliere diritti a qualcuno? Sulle quote dei migranti invece da redistribuire fra i vari paesi europei non ci saranno delle decisioni formali al Consiglio europeo degli affari interni di martedì. Lo fanno trapelare delle fonti europee. Questo perché ci sono ancora molte divisioni sul meccanismo proposto dalla Commissione europea basato sulle quote, su una ripartizione obbligatoria insomma dei richiedenti asilo fra i vari paesi. Gli sbarchi del Mediterraneo intanto hanno superato quota 100.000 secondo l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati e sul fronte politico prosegue lo scontro tra governo e Lega. Continua il pressing dei governatori di centrodestra sull'esecutivo. Maroni scrive ai prefetti chiedendo di sospendere le assegnazioni di immigrati nei comuni lombardi. Questo spiega Maroni in attesa che Palazzo Chigi individui soluzioni di accoglienza temporanea più eque, condivise e idonee che garantiscano condizioni reali di legalità e sicurezza. Salvini si rivolge invece direttamente ai cittadini e spiega chiamate le prefetture, protestate, facciamogli sentire cosa ne pensiamo. Se non ci sono i soldi per i disabili, i bimbi e i terremoti, ma ci sono per i clandestini, è una dichiarazione di guerra e spero che sia uno scherzo di cattivo gusto. Di vera e propria invasione di immigrati parla quindi Forza Italia, così come avviene ingestibile, va fermata, dice Romani, e se necessario dobbiamo farlo anche militarmente. Dal governo a replicare il ministro dell'interno, i migranti sono un tema mondiale che la Lega Nord trasforma in questione meridionale, è ingiusto, dice Alfano, basta propaganda, le elezioni sono finite, tutte le regioni devono accogliere i profughi, commenta il governatore del Piemonte, Chiamparino. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi vi dicevo torneremo su questo argomento con due esponenti politici. Intanto è stato rinviato l'atteso voto del Parlamento europeo sul TTIP, il trattato di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti, in programma domani, bisognava votarlo domani, è slittato perché ci sono ancora molte divergenze su rischi e opportunità di questo trattato. Lo ha deciso il presidente dell'Europarlamento Schulz alla luce del fatto che sono stati presentati oltre 200 emendamenti e molte richieste di voto disgiunto. Vi informo anche che Putin da stasera è in Italia, domani sarà all'Expo a Milano, Expo 2015, poi a Roma incontra Renzi, Mattarella, Papa Francesco, insomma farà un po' un tour per incontrare anche le principali autorità italiane. E c'è una buona notizia, è stato liberato il medico catanese sequestrato in Libia il 6 gennaio, ma non è ancora chiaro quando potrà rientrare in Italia. Era stato sequestrato il 6 gennaio scorso in Libia da uomini legati al gruppo radicale islamico Ansar al-Sharia. Nel pomeriggio, dopo 5 mesi, la notizia ufficiale della liberazione di Ignazio Scaraviglia, avvenuta con il concorso dell'autorità di Tripoli, uno dei governi libici non riconosciuti dalla comunità internazionale. Il medico catanese, 70enne, comunica alla Farnesina, è in buone condizioni di salute e si trova presso gli uffici dell'autorità di Tripoli per gli adempimenti di rito. Incerti però i tempi del rientro, sottolineano dagli esteri, a causa della presenza di più autorità in Libia, anche se, aggiungono le fonti, tutto procede per il meglio. Ad anticipare la notizia della liberazione giorni fa era stato l'Huffington Post, in un pezzo a firma di Andrea Purgatori, in cui si affermava che il nostro connazionale era stato liberato dalla polizia di Tripoli dopo un'irruzione nel luogo in cui era tenuto prigioniero e trasferito in una caserma delle milizie islamiche della capitale. Qui però, secondo Purgatori, sarebbe stato trattenuto come oggetto di una nuova trattativa, questa volta politica. Tripoli, infatti, in cambio del rilascio del nostro connazionale, avrebbe preteso dall'Italia il pieno riconoscimento politico del governo filo-islamico, al pari di quello che Roma ha concesso al governo di Tobruk, una versione che al momento non trova conferme ufficiali. Ignazio Scaraviglia era partito prima di Natale con altri colleghi siciliani per operare a titolo gratuito all'ospedale di Dar al-Wafa di Tripoli. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo naturalmente anche su Mafia Capitale con i nuovi arresti, ma anche con le proteste di piazza di oggi. Nuove proteste, ma anche nuovi arresti scuotono il Campidoglio dopo la bufera di Mafia Capitale. Nel pomeriggio esponenti del Movimento 5 Stelle e di alcune formazioni di destra hanno manifestato all'esterno del Palazzo Consiliare per chiedere le dimissioni del sindaco Marino e nuove elezioni. Non è mancato qualche momento di tensione quando ad alcuni manifestanti è stato impedito l'ingresso nella sala dove era in corso la riunione dell'Assemblea Capitolina, chiamata a decidere sulla sostituzione dei consiglieri comunali decaduti dopo la seconda ondata di arresti dell'inchiesta su Mafia Capitale. Proprio i lavori di ristrutturazione della sala dove si riunisce il Consiglio Comunale, l'Aula Giulio Cesare, sono intanto finiti al centro di una nuova inchiesta della Procura di Roma su una serie di appalti pubblici che sarebbero stati truccati. Fra le 5 persone arrestate c'è Fabrizio Amore, un imprenditore coinvolto anche nell'inchiesta su Mafia Capitale, e un alto dirigente della Soprintendenza per i Beni Culturali che lo avrebbe favorito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E arriviamo alla cronaca. Il Tribunale di Torino ha riconosciuto un risarcimento di circa 2 milioni di euro ai familiari di Vito Scafidi, lo studente rimasto ucciso nel novembre del 2008, 17 anni, nel crollo di un controsoffitto al liceo Darwin di Rivoli, vi ricordate, in provincia di Torino. La somma è a carico dell'ex provincia di Torino, ora città metropolitana. Lo scorso 3 febbraio la Cassazione aveva reso definitive 6 condanne. E poi una vicenda, insomma, tra gossip, spettacolo e polizia, tutto falso, non sono un violento, parola di Fedez. La polizia mi ha detto che sono stato di fermo. Oh, guarda che non sono un drogato, sono un ragazzo moderno. Sì. La star del rap smentisce di aver provocato lui questa rissa in nottata in una discoteca milanese, di aver insultato gli agenti di polizia, di aver anche ferito lanciando una bottiglia una ragazza, perché c'erano i fan che volevano fare il selfie con lui e lui si è un po' alterato e una scheggia avrebbe poi lievemente ferito questa ragazza alla testa. Fedez comunque sarà denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. In chiusura il calcio, c'è in gioco la partita Bologna-Pescara ed è in gioco la Serie A, insomma, chi vincerà andrà in Serie A. E poi anche una giornata importante in generale per l'Emilia, perché c'è anche il Parma che sembrava aver ricevuto un'offerta, invece è stata bocciata, quindi rischia il fallimento. Ne parleremo più tardi. Intanto vedo i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. L'argomento che vi ho lanciato questa sera è relativo alla svolta del Parlamento Europeo, che ha riconosciuto le famiglie omosessuali e invita i Paesi membri ad adeguarsi a questo cambiamento sociale. Secondo voi riconoscere questi diritti toglie i diritti a qualcun altro? Sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per esempio, Stefano dice: speriamo che l'esperto ci spieghi, perché più tardi ci sarà un esperto di diritto privato comparato, ci spieghi una buona volta il significato della parola diritto. Poi Luca scrive: non mi sembra che si tolga diritto a qualcuno. E Domenico Alberto dice: direi proprio di no. Emanuele: bella l'Europa, fra poco riconosceranno i gelati caldi per non discriminare chi non ha il frigorifero. Non male, Emanuele, questa comparazione tra esseri umani e gelati freddi e caldi. Tra poco. Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Il primo tema, quindi, come vi dicevo all'inizio, sarà quello di nuovo della polemica sui migranti, che è partita dalle dichiarazioni di Maroni di sabato scorso e poi dopo insomma è sfociata in varie altre repliche, contro repliche, ne parleremo tra pochissimo. Vi ricordo la pagina Facebook di Effetto Notte se volete fare i vostri commenti, in particolare anche sulla svolta, vi dicevo, del Parlamento Europeo oggi su gay e famiglie omosessuali, e poi anche gli sms al 349-238-6666. Se poi avete acceso la radio in questo momento, invece di essere puntuali alle 21, vi ricordo comunque le notizie principali di questa giornata. Sulla riforma della scuola il governo va sotto in commissione al Senato, è stato decisivo il voto del fuoriuscito Mauro e Brunetta dice è l'inizio della fine per Renzi, questo è il Vietnam. Poi su Mafia Capitale nuovi arresti e anche proteste davanti al Campidoglio, oggi tutti contro il sindaco Marino, tra l'altro è stato truccato anche, viene fuori dalle indagini, l'appalto per la sala consiliare del Campidoglio e Marino per reazione invece ha mandato baci, ha fatto il segno della vittoria. Maroni, presidente della Regione Lombardia, chiede ancora uno stop all'assegnazione dei migranti, ma il governo tira dritto e abbiamo sentito anche Romani di Forza Italia che diceva bisogna fermare l'invasione anche militarmente, mentre slitta la redistribuzione a livello di Unione Europea, della decisione che dovrebbe prendere l'Unione Europea. Il Parlamento Europeo, ne abbiamo accennato, riconosce le famiglie gay i loro diritti, è stato approvato a maggioranza questo rapporto sull'uguaglianza di genere. Poi c'è la notizia buona di questo tecnico catanese, Libero Scaravilli, è stato liberato ma ancora trattenuto in Libia, è giallo su questo medico che è stato rapito in gennaio, è arrivato oggi l'annuncio della sua liberazione però ancora non è arrivato a casa. E poi Putin che arriva in Italia col Papa, dice chiarirò tutto sull'Ucraina, domani visiterà l'Expo a Milano, poi incontrerà Renzi, Mattarella e appunto il Pontefice. E adesso allora vi dicevo concentriamoci sul nuovo filone di polemica sull'emergenza immigrazione, il cui detonatore è stata la dichiarazione del Presidente della Regione Lombardia Maroni di tagliare la minaccia di tagliare i fondi ai comuni che accolgono in Lombardia i migranti. Oggi poi ha detto anche altre cose, ha detto che propone anzi degli incentivi a chi non ospiterà i migranti, così rispondendo, replicando alla proposta di Renzi di ieri. Ma risentiamo proprio per riassumere brevemente un passaggio di Maroni di ieri. Prima era sempre colpa di Berlusconi, adesso è sempre colpa di Maroni, va bene, ma un governo, Presidente del Consiglio, se c'è un problema cerca di risolverlo, non di dire colpa tua, colpa mia, cioè siamo alle comiche. E questo governo il problema dell'immigrazione non lo sta risolvendo. Questo io ho detto ieri e ho detto che siccome la Lombardia è la terza regione in Italia come numero di immigrati arrivati in rapporto alla popolazione, non accetto più che il governo decida di mandare qui immigrati scavalcando la regione e farò quello che ho detto. E poi è arrivata prontamente ieri la replica del Presidente del Consiglio Renzi, che al contrario ha proposto degli incentivi ai comuni che si mostrano solidali. Capisco la posizione del Ministro e condivido anche la riflessione che lui ha fatto qualche settimana fa, dicendo esattamente al contrario di quello che ha detto il Presidente Maroni, cioè che noi dobbiamo invece dare degli incoraggiamenti, degli incentivi anche sul patto di stabilità a quei comuni che ci danno una mano nel coinvolgere e nel rispondere alla questione dell'immigrazione. Quindi c'è una piena convergenza e condivisione con il Ministro Alfano, non parlerei di uno scontro interno al nostro Paese, anzi noi dobbiamo far sì che questa diversità di sensibilità sia risolta. Come se non bastasse, poi ieri in serata è giunto l'intervento del sottosegretario all'economia Zanetti, che tra l'altro leader di Scelta Civica, che smentisce quanto detto da Renzi a proposito di questi incentivi. C'era ieri in collegamento Effetto Notte. Sentiamo un passaggio. È assurda la posizione di Maroni, nello specifico poi trattandosi di Maroni, cioè della persona che 4 anni prima al ministro dell'Interno diceva cose opposte e anche vergognosa, però non siamo d'accordo rispetto a addirittura antitetica, volta a dire incentiviamo, no? Gli incentivi legati al patto di stabilità devono avere come oggetto l'unico vero, cioè quello della virtuosità dei bilanci. Il fatto di accogliere o meno i migranti è un fatto di solidarietà importante, rispetto al quale ci sono dei finanziamenti appositi e che, ma vediamo bene, dovrebbero anche essere monitorati in modo più efficace perché non vi siano degli utilizzi distorsivi. Il patto di stabilità non ha nulla a che vedere con tutto questo. Quindi, sottosegretario dell'economia Zanetti, contrario sia alla posizione di Maroni ma anche a quella di Renzi. Maroni che poi oggi vi dicevo, ha detto anzi darò degli incentivi a chi respinge i migranti. Ne parliamo con l'onorevole Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega Nord alla Camera. Buonasera Fedriga. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Grazie a lei della disponibilità. E con l'onorevole Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico, ricercatrice ISPI. Buonasera a lei Quartapelle. Buonasera, buonasera a voi. Fedriga, allora la posizione della Lega mi sembra piuttosto chiara, no? Sì, beh, noi abbiamo detto con chiarezza che la politica nefasta che sta portando avanti il governo sull'immigrazione, siamo sottoposti a un arrivo continuo di migliaia e migliaia di migrati che per la maggior parte sono clandestini perché si tratta di un'immigrazione di carattere economico, non può continuare in questo modo. Oltretutto il governo, a rispetto di quanto dice, sovrasta tutti gli enti locali. Le faccio un esempio, ieri ero a Dolegna del Coglio, provincia di Gorizia, Friuli Venezia Giulia, il sindaco di Dolegna ha saputo dai giornali che probabilmente arriveranno 50 migranti sul suo territorio, comunale. Insomma, siamo all'anarchia, forse controllata da qualcuno, perché vediamo che forse questo buonismo nasconde dei forti interessi e portafogli belli gonfi, che noi non possiamo accettare, combattiamo con le armi che abbiamo a disposizione. E oltretutto, se mi permette, la polemica sul fatto che una regione non può tagliare i trasferimenti agli enti locali per quanto di sua competenza è una balla colossale, ma di cui siamo abituati da Renzi. Ma anche su questo motivo, Fedriga, anche per questo motivo è possibile tagliare i fondi? La regione può scegliere autonomamente, ovviamente con i fondi di competenza regionale, come destinarli e a chi farlo. In Friuli Venezia Giulia la governatrice Serracchiani, l'impalpabile governatrice Serracchiani, che sta facendo invadere Friuli Venezia Giulia, ha deciso di tagliare i fondi a quei comuni che non fanno una legge che ha fatto le aggregazioni dei comuni, che non potranno oltretutto i cittadini più eleggere gli amministratori locali. Non capisco perché, per quando si toglie la democrazia e la scelta dei cittadini si possono tagliare i fondi, per quando invece si vuole contrastare l'immigrazione clandestina, no, questa anticostituzionale, non si può fare. Mi domando perché, con quali ragionamenti. Onorevole Quartapelle, quindi ha sentito la posizione, la conosce questi giorni della Lega, ha sentito Fedriga, le accuse al governo Renzi. Che soluzioni ci possono essere? Perché oggi Salvini diceva sì, non ci sono i soldi per i disabili, non ci sono i soldi per le famiglie povere, ci sono i soldi per gli immigrati. Dice allora questa è guerra, una provocazione. Ma al netto del fatto che io sono lombarda, il presidente Maroni nel passato ha tagliato già i fondi agli enti locali, per esempio per il trasporto pubblico locale, senza la motivazione dell'immigrazione. Quindi diciamo la Lega non è nuova a tagli che colpiscono gli enti locali, nonostante sia un movimento che dice di essere per l'autonomia dei territori. Detto questo, io credo che l'emergenza immigrazione l'hanno fronteggiata governi di centrodestra, governi di centrosinistra, il governo tecnico, Maroni stesso quando era ministro degli interni. Non ci sono politiche che possano fermare i flussi, tant'è che la legge Bossi-Fini della Lega non ha ridotto gli arrivi in Italia, ma ha semplicemente creato centinaia di migliaia di clandestini. La differenza che c'è tra chi vuole gestire il problema e chi invece lo usa per fare della propaganda. Sono lombarda, appartengo a una regione che è ritenuta la più avanzata in Italia. Penso che la Lombardia possa fare di più che accogliere 5.000 rifugiati come fa oggi. Ci sono regioni come il Lazio con 10.000 persone, come la Sicilia con 20.000 persone. Penso che insomma la rivolta di Maroni sia ingiustificata quando il Ministro degli Interni chiede un aumento di 1.000 persone negli ultimi giorni. Non sono cifre pazzesche. Siamo 10 milioni di abitanti, siamo la regione più avanzata d'Italia, ci sono regioni che si stanno sicuramente sacrificando più della nostra regione, a partire dalla Sicilia. Io farei sentire, onorevole Fedriga, cosa ha detto oggi Paolo Romani di Forza Italia a proposito di come gestire l'emergenza immigrazione. Sentiamolo. Noi dobbiamo fermare l'invasione, dobbiamo fermare 500.000 persone, non perché non vogliamo che abbiano la possibilità di chiedere asilo, perché così come avviene l'invasione è ingestibile. E per fermarlo dobbiamo intervenire militarmente, questo che deve dire chiaramente il governo. Non possiamo sottrarci a una responsabilità nazionale e internazionale. Il Chapter 7, articolo 42 della Carta delle Nazioni Unite, lo consente, non è stato attivato. L'Unione Europea poteva condividerlo in attesa dell'accordo del governo libico, ma sapete che ce ne sono due. Noi dobbiamo andare a prendere le barche prima che partano, non possiamo affondare in mezzo al mare. Quindi, Federica, voi sareste d'accordo con, come Lega, con l'intervento militare, come diceva Paolo, anche perché ho visto che le posizioni di Forza Italia e Lega si sono molto avvicinate in questi giorni su questo argomento. Su questo abbiamo fatto una proposta che è certificata da una mozione della Lega, bocciata oltretutto dal Partito Democratico, dove abbiamo proposto più soluzioni. La prima è il blocco navale, ci hanno detto che non si poteva fare, è improponibile, la Lega dice stupidaggini, dopodiché la proposta che mi sembra che venga anche da organismi internazionali. Seconda cosa, affondare i barconi prima che partano, anche questa dopo presa, diciamo, da Renzi come grande baluardo, l'avevamo detto, ci aveva dato dei passi squinternati. E poi abbiamo detto, terza cosa, andare a fare una seria politica per andare ad aiutare queste persone a casa loro, perché come dicevo si tratta principalmente di una migrazione a carattere economico. Se mi permette, però, io ho sentito dire a quartapelle delle cose che sono assolutamente lontane dalla realtà. Quando noi eravamo al governo, ricordo che prima della primavera araba gli sbarchi erano diminuiti di più del 90%. Ricordo che durante la primavera araba, dove non solo la Libia ma anche l'Egitto, anche la Tunisia erano in guerra civile, gli sbarchi sono stati un terzo rispetto allo scorso anno, e non parliamo di quest'anno che supereremo anche il record del 2014. Eravamo riusciti a fermarli. Non è vero che non si può fare. Evidentemente non c'è la volontà politica e la forza politica per portare avanti scelte di questo tipo. Oltretutto è particolarmente spiritosa la quartapelle quando parla di tagli delle regioni. Ricordo che lei, insieme a tutta la maggioranza, per scelta del governo, hanno tagliato di più di 2 miliardi i trasferimenti alle regioni. Di cosa stiamo parlando? Che adesso accusi la regione Lombardia che ha dovuto fare dei tagli semplicemente perché il governo nazionale ha voluto colpire gli enti locali? Non a caso regioni, perfino di sinistra, comuni, perfino di sinistra, si sono ribellati rispetto alle scelte portate avanti dal governo. Quindi, insomma, ecco, un po' di serietà, penso, quando si trattano questi argomenti, anche gli enti locali, penso ci voglia essere. Dopo, legittimamente, ognuno ha posizioni diverse, però bisogna partire dalla verità dei fatti per fare i ragionamenti. Quartapelle, invece, su l'affondare i barconi, il blocco navale, le proposte che faceva la Lega, lei si trova d'accordo, il governo PD, la maggioranza, cioè... Ma io credo che noi stiamo affrontando un problema che è chiaramente un problema epocale. Faceva riferimento il collega Federica a quanto è successo durante la primavera araba. Noi stiamo affrontando un fenomeno che è un fenomeno con delle proporzioni straordinarie, che è dovuto al crollo dello Stato in Libia. Di fronte a questo fenomeno, che è un fenomeno straordinario, si deve cercare di trovare la maggiore unità possibile, di fare uno sforzo che deve essere uno sforzo straordinario di unità nazionale e non solo, anche a livello europeo. Certamente ci sono delle proposte che per fortuna condividiamo anche con l'opposizione. Siamo stati insieme ad altri, come dice Federica, a dire che serve un intervento che però è difficile da essere autorizzato. Io sono contenta che il collega Romani dice che la questione dell'affondare i barconi è una cosa che si può fare immediatamente senza bisogno di nessuna autorizzazione internazionale. Purtroppo non è così. Serve un'autorizzazione internazionale, serve un accordo dello Stato libico. In questo momento in Libia ci sono due governi che non si mettono d'accordo e quell'operazione è resa difficile da questa situazione geopolitica. Per cui noi non siamo contrari in linea di principio, è che è difficile arrivare lì. Sul blocco navale ho qualche riserva, nel senso che ci sono stati nel passato episodi di blocco navale, gli ascoltatori e voi ricorderete ad esempio il blocco navale che è stato attuato nei confronti dell'Albania e che è risultato in un incidente mortale il Venerdì Santo del 1997 nel canale nel mare Adriatico, per cui è una cosa che effettivamente è molto difficile da fare con delle barche stracolme come quelle che abbiamo visto. Problema. Certamente bisogna provare a lavorare insieme, ciascuno prendendosi le proprie responsabilità, ed è questo, insomma, l'atteggiamento che io imputo al presidente Maroni. Quando si ha il governo di una regione o dello Stato nazionale, a fronte di fenomeni epocali come quelli che stiamo confrontando, si deve fare un po' di più, si deve fare uno sforzo maggiore. Devo chiudere, però vorrei chiedere all'onorevole Federica, sarà informato su queste insinuazioni maliziose, diciamo così, soprattutto mi pare da PD e Movimento 5 Stelle, che accusano Maroni di aver alzato tutto questo polverone sui migranti, per alzato i toni per coprire i suoi guai giudiziari di questo periodo, perché pochi giorni fa è stata chiusa l'inchiesta a suo carico per avere nel maggio 2014 esercitato pressioni sui vertici Expo per far ottenere un biglietto in business e un soggiorno in un albergo pluristellato di Tokyo del costo di circa 6.000 euro a Maria Grazia Paturzo, che secondo i PM era legata a lui da una relazione affettiva. È questo il motivo? Ovviamente è ridicola la cosa. Il tutto viaggio che non è stato fatto, tra parentesi, nessuno è partito, nessuno è andato in nessun hotel. Quindi con questa premessa non mi sorprende comunque. Cioè, l'asse PD 5 Stelle si è visto anche sui voti alla Camera proprio riguardo all'immigrazione. Hanno votato insieme l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, hanno votato insieme la diminuzione della permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, hanno votato insieme una norma che vieta le espulsioni di clandestini se vengono da paesi dove non sono rispettati i nostri diritti civili, ovvero tutta l'Africa e quasi tutta l'Asia. Insomma, hanno fatto un asse pro immigrazione clandestina. Non mi sorprende che adesso sollevino questa polemica strumentale, che però lascia il tempo che trova. Grazie tanto, onorevole Massimiliano Fedriga, grazie a lei e grazie all'onorevole Elia Quartapelle. Buona serata. Grazie a voi. Grazie. Ora vogliamo sentire che cosa dice momentaneamente Crozza, brevemente, sulla 7? Tutta la città è circondata da un traffico inestricabile di malaffare. Sta parlando di Roma. Roma non c'è più il grande raccordo anulare, c'è il grande accordo a rubare. Com'è ecco, possibile? Su questa battuta diciamo che possiamo prenderci un po' di ricreazione. Voi continuate con le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666, dove Lidia dice la sua domanda è tendenziosa quando ho detto se il riconoscimento dei diritti gay leva diritti a qualcuno. Dice la famiglia è tra uomo e donna, non è una questione di diritti tolti o meno. Lidia, la tendenziosità può essere attribuita all'uno o all'altro, eh? Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E eccoci insieme, Roberta Giordano, con voi, con me, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche attraverso gli sms al 349-238-6666. Ma intanto, prima di affrontare il prossimo argomento, vi ricordo le notizie più importanti della giornata. La riforma della scuola, il governo è stato battuto al Senato sul parere di costituzionalità. Diritti gay, il Parlamento europeo riconosce le famiglie omosessuali e raccomanda ai paesi di adeguarsi. Libia ha liberato il tecnico siciliano Ignazio Scaravilli, incerti però i tempi per il suo rientro in Italia. Immigrazione, Unione europea divisa, slitta la ridistribuzione dei migranti e Maroni rilancia, premierò i comuni che rifiutano i clandestini. Mafia Capitale, proteste oggi davanti al Campidoglio, mentre l'Assemblea Capitolina sostituiva i 4 consiglieri arrestati, e per il calcio si gioca Bologna a Pescara per conquistare la Serie A. Europa 24 notte. And now we come to the committee resolution as a whole. This is by roll call vote. The vote is open. Should we go on? Yeah. And the vote is closed. And it is adopted. Congratulations to the rapporteur, Madame Noether. Congratulations per questa svolta del Parlamento europeo. L'avete sentito? Questo era il voto di oggi a Strasburgo sui diritti gay, nel senso è un pronunciamento ufficiale del Parlamento europeo che segna proprio una svolta, perché se è vero che Strasburgo da più tempo sollecita i vari paesi che fanno parte dell'Unione europea a riconoscere i diritti delle persone omosessuali, e la cosa più recente a marzo con l'Europarlamento che aveva votato a larga maggioranza a favore del riconoscimento delle unioni civili e dei matrimoni tra persone dello stesso sesso considerandole un diritto umano, oggi cos'è successo? Che, l'avete sentito, il Parlamento ha approvato a larga maggioranza un rapporto sull'uguaglianza di genere in Europa, in cui si parla per la prima volta, questa è la cosa particolare, in maniera molto esplicita di famiglie gay. Il Parlamento, si legge nel testo, prende atto dell'evolversi della definizione di famiglia. Ancor più significativo poi un altro passaggio dove il Parlamento raccomanda che le norme in quell'ambito, compresi i risvolti in ambito lavorativo come i congedi, tengano in considerazione fenomeni come le famiglie monoparentali e l'omogenitorialità. Per rendere più completo, dice, comprensivo il diritto della famiglia e del lavoro, visto che la composizione, la definizione di famiglia cambiano nel tempo. Questo si legge in questo testo dell'approvazione sulle famiglie gay da parte del Parlamento europeo. Naturalmente subito hanno esultato le associazioni gay e omosessuali in Italia. Aurelio Mancuso, presidente dei quali, ti ha detto si tratta di notizie confortanti. È intervenuto anche il presidente, il leader di SEL, Vendola, che ha detto su Twitter un altro passo in avanti in Europa sui diritti di tutte le persone. Ha aggiunto, in Italia invece la politica politica Balbetta. Di parere completamente diverso il partito di Angelino Alfano, l'UDC, non ha usato mezzi termini il senatore Marinello, presidente della Commissione Ambiente di Palazzo Madama, che ha detto: poco importa se il Parlamento Europeo riconosce le famiglie gay, l'Italia se ne frega altamente. Questa è la posizione. In ogni caso, ne voglio parlare col professor Raffaele Torino. Buonasera, professore. Buonasera. Che è docente di diritto privato comparato all'Università degli Studi di Roma 3, autore di La tutela della vita familiare delle coppie omosessuali nel diritto comparato europeo e italiano. Professore, quindi intanto è la prima volta che si parla esplicitamente di famiglie gay da parte dell'Europarlamento, questo è un fatto? Beh, devo dire che l'Europarlamento in realtà ha avuto da più tempo attenzione per le famiglie o con componenti aventi un orientamento sessuale omogeneo, per le famiglie aventi dunque le famiglie omosessuali. Tuttavia oggi c'è stato grande clamore per questa risoluzione del Parlamento europeo che, a mio avviso, peraltro è un clamore eccessivo. In che senso? Perché intanto due riflessioni. La prima riflessione dal punto di vista strettamente giuridico è che questa è una risoluzione del Parlamento europeo che vuole dare un orientamento politico alle altre istituzioni, segnatamente alla Commissione europea, che dovrà produrre una nuova strategia 2015-2020 in materia di parità di genere, e quindi è un orientamento, non c'è nulla di vincolante. Secondo, siamo di fronte a una risoluzione il cui oggetto principale è la parità di genere uomo-donna. È una risoluzione molto importante perché va molto avanti sulla parità di genere uomo-donna, in cui vi sono dei riferimenti anche ai gruppi LGBT, alle persone LGBT, alla omogenitorialità, ma riferimenti tutto sommato non particolarmente innovativi rispetto al passato, e quindi mi sembra che vi sia appunto un eccessivo clamore. È un'ulteriore conferma che il Parlamento europeo è sensibile alle tematiche LGBT, le tematiche omosessuali, transgender, bisexual, ma non è un passo decisivo, a mio avviso. Molto più importante è stato invece il referendum che in Irlanda ha inserito nella Costituzione irlandese, per la prima volta, questo sì veramente, il matrimonio egalitario. E questo è successo, infatti, lo ricordava il professore, maggio scorso. L'Irlanda è stato l'ultimo paese per ora in Europa che ha detto sì ai matrimoni gay. Nel mondo ci sono più di 20 stati che riconoscono il matrimonio tra persone omosessuali, di cui 14 soltanto in Europa, in altri ci sono le unioni civili, mentre ci sono paesi europei che fino ad oggi non hanno riconosciuto nessun tipo di tutela per le coppie gay. Restano 9 questi paesi in Europa, che sono l'Italia, la Grecia, Cipro, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Romania. Fa un certo effetto sentire l'Italia in questo gruppo, per esempio con Bulgaria e Romania, professore? Sì, fa effetto perché noi ci fondiamo su contrapposizioni est-ovest, ma qui la contrapposizione in realtà è fra paesi dove gli orientamenti religiosi cattolici o anche non cattolici sono più forti, e o paesi dove le capacità di pressione politica dei gruppi religiosi sono meno forti. È per questo che l'Irlanda ha fatto particolare scalpore, perché si è sempre pensato all'Irlanda come un paese cattolicissimo. Molto cattolico, così la Spagna anche, no? Una svolta, sì, così anche la Spagna, e quindi non ci stupiamo se l'Italia risulti nel novero di questi 9 paesi in cui non vi è nessuna forma di riconoscimento della relazione familiare omosessuale, che si può andare dal massimo livello, per alcuni peraltro nemmeno il massimo, che è il matrimonio, a un semplice riconoscimento come unioni civili o come partnership, di cui pure si discute nel Parlamento italiano peraltro. Sì, tra l'altro questa cosa, se non altro, anche se non è vincolante questa svolta del Parlamento europeo, professor Torino, ha fatto dire alla senatrice Laura Cantini del PD, della direzione PD, che è prima firmataria insieme alla collega Marcucci di un disegno di legge che istituisce le unioni civili, ha fatto dire oggi, prima delle ferie estive, sarà approvata la legge sulle unioni civili in Italia. Questo può essere, ma io... non sono un commentatore politico, non conosco i meccanismi del Parlamento italiano così in dettaglio. Lo spero perché penso che sia un passaggio di civiltà riconoscere i diritti a 360 gradi anche per le persone che hanno orientamenti omosessuali, ma mi sembra che l'iter in questo momento sia molto dibattuto, ci sono numerosissimi emendamenti, c'è un forte ostracismo parlamentare, quindi lo confido anche io perché penso che sia un passaggio appunto di modernità e di civiltà, ma non ne sono affatto certo. Professore, per chiudere, in Italia appunto l'iter è ancora lungo, ci sono difficoltà, tantissimi emendamenti, abbiamo sentito prima anche solo la posizione dell'UDC, ma secondo lei è più una questione culturale, religiosa, come diceva, o la paura da parte dei detrattori, insomma, dell'Unione Civile di perdere dei diritti? Beh, guardi, l'unico argomento che non si può usare contro il riconoscimento delle famiglie omosessuali è che riconoscere diritti agli omosessuali faccia perdere dei diritti agli eterosessuali. Perché l'attribuzione di un diritto in più a una persona non sottrae mai un diritto a un'altra persona. Nel caso di specie non vedo come riconoscere le unioni civili piuttosto che una partnership, piuttosto che un matrimonio a una coppia omosessuale possa in qualche modo incidere sul il diritto al matrimonio degli eterosessuali o sul riconoscimento delle loro famiglie. Mi sembra un argomento veramente agiuridico e terroristico, oserei dire. Grazie professor Raffaele Torino. Grazie, grazie a voi, serata. Arrivederci. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qui in meno di pochi secondi, direi, con la riforma della scuola per la quale oggi il governo è andato sotto in commissione al Senato. È stato decisivo il fuoriuscito Mauro, comunque per il momento appunto è ancora un passaggio nella commissione del Senato. E poi per Mafia Capitale nuovi arresti e proteste in piazza al Campidoglio, tutti contro il sindaco Marino. E fra l'altro nuovi arresti, è anche stato scoperto che è stato truccato un appalto per la sala consiliare del Campidoglio. Maroni ancora rincara e dice sui migranti stop l'assegnazione di migranti alla Lombardia, ma il governo tira dritto e per fermare l'invasione, dice Paolo Romani di Forza Italia, bisogna intervenire militarmente. Intanto l'Unione Europea ha fatto slittare la decisione sulla redistribuzione tra i vari paesi europei. Il Parlamento europeo riconosce le famiglie gay e i loro diritti, è stato approvato a maggioranza un rapporto sull'uguaglianza di genere, ne abbiamo parlato diffusamente. Poi Libero Scaravilli, il medico catanese, è stato liberato in Libia, è stato rapito a gennaio, però è ancora lì trattenuto e quindi non si sa ancora quando tornerà a casa, il governo dice tornerà presto. E poi Putin in Italia, col Papa chiarirò tutto sull'Ucraina, dice, e farà una visita anche all'Expo di Milano domani, poi vedrà Renzi e Mattarella. E vedo invece davanti ai miei occhi Dario Ricci in carne ed ossa, ecco, e sì, cuffie anche. Assolutamente. Dario, allora c'è una partita che deve, insomma, porta alla conquista della Serie A tra due squadre, Pescara e Bologna. Esattamente, sì, perché oggi è la finale di ritorno dei playoff di Serie B, sai Roberta che da qualche anno... Vedo Alberto Tobba anche, cioè, brava. E quello l'altro vicino è il presidente del Bologna, Jota Copina, americano, come James Tallotta. Insomma, anche il Bologna americano, sì, ha questa nuova esotico, proprietà. Esattamente. Esotico. Ebbene, Pallotta e Tacopina potrebbero, tra l'altro Tacopina era stato anche accostato, si era avvicinato anche all'acquisto della Roma. Potrebbero ritrovarsi il prossimo anno in Serie A. Perché? Perché il Bologna, quando siamo al decimo del secondo tempo, è in vantaggio per 1-0, la rete di Sansone al 37esimo. Beh, Sansone e adesso... non poteva non fare la rete, effettivamente. No, beh, insomma, Sansone, chiaramente uno dei più forti lì. E anzi, adesso si è mangiato anche il raddoppio. E quindi in caso di vittoria, anche al Bologna tra l'altro basta anche il pareggio per ottenere la promozione, il Bologna tornerebbe in Serie A, insomma sappiamo, una delle grandi storiche del nostro calcio, ma con tutto il rispetto del Pescara. Pescara che anzi adesso arriva al pari. Adesso arriva al pari, quindi il Pescara non solo il rispetto glielo diamo noi, ma lo merita anche sul campo, perché arriva l'1-1 che riapre la partita. Adesso fra poco vi dico anche il marcatore. Noi raccontiamo sempre tanti di gol in diretta. Vero, ci aspettano, non so, aspettano proprio noi due. Il nostro connubio evidentemente poi ispira. Sì, sì, è foriero gol, di reti. Proprio, sì, sì, sì. E quindi pari. Ma senti, ma invece al Pescara che cosa serve? Al Pescara serve la vittoria. Serve quindi la vittoria, quindi non basterebbe. Non basterebbe. Il pareggio qualifica il Bologna, però partita riaperta assolutamente 1-1, e quindi devono aspettare i tifosi felsini. C'è anche Cremonini, immagino. Insomma, tutte le grandi personalità, un po' di Pasquato, ecco l'autore del pareggio. Che spintura Pasquato. Anche l'arbitro, che fa? Ci Un po' di nervosismo adesso. Però, insomma, o si va o non si va in Serie A. Dario, tra l'altro, a proposito invece di Emilia Romagna, c'è anche il Parma protagonista oggi, ma non certo perché è in campo, no? Sì, è stata un'altra giornata difficile perché era attesa l'offerta definitiva per l'acquisto della società dopo le tante aste che erano state disertate. Oggi è arrivata in realtà una lettera, si aspettava ci fosse un'offerta, i curatori fallimentari si aspettavano ci fosse un'offerta in questa lettera, invece l'unica lettera che è arrivata, quella di Giuseppe Corrado, manager ex uomo Fininvest, oggi amministratore delegato della catena dei cinema The Space, conteneva in realtà una manifestazione di interesse con dei criteri tra l'altro estranei al bando stesso, quindi i curatori fallimentari si sono presi altre 24 ore di tempo per decidere come confrontarsi con questa manifestazione di interesse, perché ricordiamolo, adesso la prospettiva è o il fallimento del Parma non dovesse trovare acquirenti e quindi la ripartenza addirittura dai dilettanti, e sarebbe insomma un percorso molto lungo poi per ritornare nel calcio d'elite, oppure una trattativa privata, ma a quel punto devono essere i curatori fallimentari a stabilirne i criteri e anche gli eventuali interessati ad adeguarsi a questi stessi criteri. Quindi insomma ci sono due aspetti del calcio emiliano che questa sera sono vivono uno emozioni che potrebbe diverse, sì. Potrebbe insomma esultare per quello che ma vediamo insomma, vediamo partita apertissima, hanno diritto tutte e due Pescara, assolutamente hanno fatto entrambi hanno fatto un grandissimo campionato, due grandissimi percorsi, quindi assolutamente meritato. Tra l'altro è stata una giornata in cui, Roberta, c'è stato anche qualche sviluppo sul FIFA Gate, non so se abbiamo qualche secondo per dirlo, proprio, però mi pare sì, questo manager argentino Borzago, che si è costituito a Bolzano, era riuscito a evitare la famosa retata di Zurigo rimanendo al suo tavolo mangiando il suo croissant imperterrito mentre gli agenti dell'FBI entravano nell'hotel e arrestavano gli altri, quindi almeno l'ha mago, digerito il croissant, e poi dopo ha detto vabbè, facciamoci vivi. Grazie Dario Ricci, noi ci sentiamo più tardi.